Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, l'ultima nota del centro studi di Confindustria evidenzia una polarizzazione fortissima fra le aziende. In Italia c'è una parte di aziende che sono molto produttive, vanno molto bene, e poi tutto il resto che è sempre più in difficoltà. Che cosa dice l'ultima nota del centro studi di Confindustria? Dice che nel 2007 le aziende più produttive erano il 120% più produttive di quelle meno produttive. Nel 2015 questa percentuale è diventata del 155%. In Italia c'è un problema che ha evidenziato molto bene il collega Paolo Bricco in un articolo apparso su Sole 24 Ore del 15 gennaio, quando ha scritto che la stragrande maggioranza delle aziende sopravvive a se stessa e non riesce a uscire dall'asfittico mercato interno. In Italia abbiamo appena il 20% delle aziende che traina tutto il resto. Questo dato di fatto è il punto di partenza per una conversazione con uno degli amici di questa trasmissione, il professor Luca Beltrametti, che dirige il Dipartimento di Economia dell'Università di Genova. Buongiorno. Buongiorno. E con il quale parliamo dello stato dell'arte dell'industria italiana in questo inizio d'anno. Allora, che cosa vuol dire questa polarizzazione pazzesca che c'è tra le aziende italiane? Che sopravviverà solo un quinto e gli altri andranno a catafascio? Sì, questo dato che lei cita di scenario industriale di Centro Studi Confindustria, che è stato poi sviluppato in vari lavori da Luca Paolazzi e da Traù, effettivamente evidenzia una polarizzazione che preoccupa, perché il gruppo di testa non solo aumenta la sua distanza in termini di efficienza rispetto al gruppo, diciamo, di chi è indietro, ma numericamente si impoverisce e invece si vede un aumento del gruppo di coda anche in termini numerici. Questo in qualche modo potrebbe essere ricondotto, in base a questi studi, al fatto che c'è un'eccessiva specializzazione anche da parte delle imprese, che ne ha determinato una insufficiente capacità di adattamento al cambiamento. Per esempio, in questo studio si riferisce che il 65% delle imprese italiane è specializzato in un singolo prodotto e solo lo 0,8% produce più di 10 tipologie di prodotti diversi. In qualche modo questo ne può minare la capacità di adattamento in un contesto in cambiamento rapidissimo. Ma del resto più o meno sono le stesse teorie di Coltorti, che ha evidenziato nel quarto capitalismo, quelle 5.000 e medie imprese virtuose, i produttori del 70% del valore aggiunto italiano. E tutti gli altri? Cosa succede a tutti gli altri? Tutti gli altri arrancano, non generano profitto. Anche in questo, diciamo, nasce la preoccupazione che la manovra del governo, pur meritevole sotto molti profili, mi riferisco alla manovra in particolare del ministro Calenda, che va sotto il nome Industria 4.0, che ha vari aspetti positivi a mio avviso, cioè l'automatismo della politica e quindi la rinuncia a passare attraverso bandi che spesso appesantiscono solo in termini burocratici, la scelta di una neutralità tra tecnologie e soprattutto il segnale forte che richiama l'attenzione sul fatto che gli investimenti industriali devono essere al centro di una politica industriale. Quindi da questo punto di vista la proposta c'è, però il rischio è che la grande maggioranza di imprese che sono indietro e che non fanno profitti siano poco stimolate dall'iperammortamento. Perché l'iperammortamento è una cosa fiscale, ma tu è vero che li ammortizzi, ma intanto li devi tirare fuori i soldi, però se non li hai è come dire ti scarichiamo il mutuo prima casa, ma se io non ho i soldi per fare il mutuo non è che faccio il mutuo anche se non posso scaricare. E c'è anche un tema di probabilmente competenze, nel senso che è sempre più forte l'idea che in queste nuove tecnologie sia sempre più necessaria anche non solo, ma la presenza di saperi codificati, quindi saperi che si apprendono a scuola, ecco, e all'università. Arriviamo quindi a parlare dello stato dell'arte dell'industria italiana. E come arriviamo a parlarne? Arriviamo a parlarne dicendo: noi in Italia abbiamo un problema di polarizzazione delle aziende, con un 20% di più forti e gli altri che arrancano. Abbiamo un problema di investimenti che sono sempre più contenuti. Abbiamo un problema di recuperare 20 punti di PIL persi durante la crisi. Mentre succede tutto questo, arriva Industry 4.0, arriva stampa 3D o manifattura additiva, arriva la robotica, arrivano un sacco di rivoluzioni tecnologiche industriali che potrebbero aumentare la produttività. Allora, il tema è: noi aziende produttive italiane, che abbiamo sofferto così tanto, riusciamo a giovarci di tutto questo, e a quali condizioni? Ma il rischio che io vedo è che l'enfasi mediatica su queste tecnologie, e anche i messaggi che arrivano da certe società di consulenza che enfatizzano la natura radicale del cambiamento, il fatto che si parli di rivoluzione piuttosto che di una evoluzione, possano spaventare soprattutto la pattuglia degli imprenditori più indietro, più in difficoltà e meno attrezzati dal punto di vista culturale e tecnologico. In realtà, però, parlando con gli addetti ai lavori, emerge la possibilità di un approccio molto più graduale. Per esempio, un retrofitting, è un termine che si usa nel gergo, cioè adattare macchinari esistenti e magari anche relativamente vecchi, aggiungendo sensori, connettendo le macchine tra di loro, mettendo queste macchine in condizione di generare dati che vengono successivamente analizzati. Quindi esiste la possibilità, con investimenti anche relativamente contenuti, di fare un pezzo almeno del percorso verso Industria 4.0. Non è detto che sia un pezzo completo di questo percorso, ma è un pezzo sufficiente certamente a permettere all'imprenditore, ai manager, di sviluppare nuovi modelli di business, di capire il potenziale di queste tecnologie e anche di formare all'interno delle aziende le competenze necessarie per sfruttarle al meglio. Ecco, la polarizzazione delle imprese emerge anche negli investimenti in tecnologie. Lei ha fatto parte di una task force che per Federmeccanica ha verificato lo stato dell'arte di queste tecnologie attraverso uno studio, ed è emersa un'Italia spaccata in due fra chi investe molto su queste tecnologie, ci crede e ci lavora sopra, e chi invece non sta facendo nulla. Sì, esattamente così. Anche dai risultati di questa indagine di Federmeccanica emerge però una conferma a quello che dicevo prima, cioè paradossalmente le imprese che già sono più avanti, che quindi dichiarano di utilizzare più di una di queste tecnologie, sono più propense a pensare che sia possibile un approccio graduale e sono propense a ritenere che il costo degli investimenti necessari sia più piccolo. Quindi c'è anche un effetto paura tra quelli che sono rimasti indietro, e su questo bisogna agire sia con politiche culturali oltre che con politiche di natura fiscale. Ecco, sul calo degli investimenti bisognerebbe fare una riflessione, perché è un problema pazzesco in Italia il calo degli investimenti produttivi. Leggo alcune cifre. Nel 2008, quando c'è stata la crisi, meno 3% degli investimenti. Nel 2009, meno 10%. Nel 2010, meno 0,5%. Nel 2011, meno 2%. Nel 2012, meno 9,2%. Nel 2013, meno 6,6% e nel 2014 meno 3%. Tutto questo ha visto un modestissimo recupero nel 2015, più 1,2%, e nel 2016 più 1,8%. In Italia ci sono stati 6 anni di ecatombe degli investimenti, che sono stati 6 anni drammatici. Io le chiedo: A, come mai? B, non c'è anche un problema che in chiave di autocoscienza andrebbe affrontato, un problema di responsabilità specifiche di alcuni imprenditori che non hanno investito? Beh, certamente, diciamo, nell'Italia post crisi del 2008 investire presupponeva un coraggio particolare. Bene ha fatto, credo, il governo, il ministro Calenda, ad agire esattamente sulla leva degli investimenti, perché, come si diceva, enfatizza appunto che lì sta il ritardo, come giustamente dice lei. Dal punto di vista degli imprenditori, alcuni certamente hanno goduto di alcune posizioni di rendita che hanno permesso, diciamo, una decorosa sopravvivenza anche senza investimenti particolari. Altri forse, come si diceva, sono anche stati spaventati eccessivamente da una fanfara che da un lato annunciava una rivoluzione in atto, che in atto ancora non è, perché i dati della produttività non ci parlano di una rivoluzione che si è già scatenata, ma ci parlano semmai di grandi promesse di alcune imprese che si sono avventurate con enormi risultati su questa strada, ma dal punto di vista macro i dati della produttività non parlano di una rivoluzione tecnologica. Sì, poi ci arriveremo. Quindi diciamo che dal punto di vista dell'imprenditore c'è stato anche un tema di risorse finanziarie insufficienti e di una paura ad affrontare un salto tecnologico per il quale non erano attrezzati. E quindi sono solo queste le responsabilità della classe imprenditoriale italiana, o anche alla luce del fatto che c'è solo un 20% che eccelle, ce ne sono anche altre? Certamente la struttura di piccole e medie imprese che caratterizza il nostro paese, da un lato genera agilità e flessibilità, ma genera anche debolezza finanziaria e anche una struttura manageriale spesso povera. Spesso si ripete anche il tema non solo della piccola dimensione delle imprese italiane, ma anche della loro dimensione a gestione familiare. E qui ci sono alcuni studi internazionali che collegano in qualche modo una bassa propensione all'innovazione con una gestione familiare dell'impresa. Ci dobbiamo interrompere per gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Restate con noi. Sono Giovanni Minoli. Tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. Di faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia, i gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche la nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, stiamo parlando con Luca Beltrametti, che è un economista che a me è molto simpatico perché ha spesso un punto di vista che non è quello di tutti e magari dice anche delle cose che non fa piacere dire, che ad alcuni non fa piacere sentirsi dire, e stavamo parlando dello stato dell'arte dell'industria italiana. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di un'industria che è polarizzata. Adesso, alla luce del fatto che c'è una minoranza che investe molto, va bene, e una maggioranza che arranca, come abbiamo detto nella prima parte della trasmissione, io vorrei avere da lui, che ha molto studiato le nuove tecnologie in azienda, dei suggerimenti su cosa deve fare l'imprenditore per aumentare la propria produttività e adottarle con successo. Iniziamo dall'Industry 4.0. L'Industry 4.0 è una cosa che tante volte spaventa perché uno dice: devo cambiare tutto, devo rifare i macchinari, devo investire dei soldi che magari non ho e devo rivoluzionare la mia organizzazione. Beltrametti invece ci dice che non è così. Ci spieghi perché? Sì, come accennavo prima con questo riferimento al concetto di retrofitting, spessissimo per esempio le imprese non sanno neanche di avere dei dati che stanno raccogliendo e non li utilizzano, quindi diciamo esiste la possibilità di cominciare per esempio a estrarre informazione da dati che già si possiedono o semplicemente a estrarre ulteriori dati con investimenti minimi. Un altro riferimento che a me sembra interessante per rispondere alla sua domanda è quello alla stampa 3D. Tanti ne parlano. Le stampanti 3D evidentemente sono di vari tipi, ci sono quelle che costano 2-3 mila euro, che sono per uso amatoriale, ma quelle per uso industriale costano 500 mila euro, 1 milione di euro. Si tratta quindi di un investimento molto importante e che presuppone anche una capacità interna all'azienda di saperle usare, che non è banale, di approcciare l'acquisto dei materiali, eccetera, eccetera. Esiste invece la possibilità di iniziare ripensando alla forma di alcuni dei magari delle migliaia di pezzi che compongono un macchinario, individuandone quelli che si prestano a una reingegnerizzazione che sfrutti le libertà di geometria offerta alla stampa 3D. E poi, per esempio, farsi produrre i pezzi, se si tratta di un numero di pezzi delle decine o delle centinaia, da soggetti specializzati che possiedono decine di stampanti, in Italia ce ne sono alcuni anche di dimensione molto significativa, e che possono fare una lavorazione conto terzi. Quindi ci può essere un percorso nel quale io comincio ad avvalermi dei benefici della stampa 3D ripensando alle geometrie delle mie componenti e quindi avendo dei guadagni importanti di efficienza e di qualità dei miei prodotti, utilizzando dei service, dei laboratori conto terzi che hanno qualità eccellente e che non richiedono un investimento immediato in una stampante che deve essere, se acquistata, poi utilizzata 24 ore su 24 per essere ammortizzata. Quindi c'è un percorso intermedio che io credo anche un imprenditore piccolo possa percorrere, e magari anche sfruttando delle possibilità impreviste di miglioramento dei propri prodotti. Ecco, sull'Industry 4.0 ascoltate qui una scheda che ci dice di che cosa si tratta e poi parleremo ancora col professor Beltrametti del retrofitting. Industry 4.0 significa in buona sostanza la totale digitalizzazione della produzione e poi della vita. Su ogni componente manifatturiero c'è un sensore che permetterà al componente stesso di dialogare con gli altri componenti prima, durante e dopo il momento della fabbricazione. Il dialogo, cioè la trasmissione di informazioni, avviene anche con la fabbrica, i clienti, gli utenti, i trasportatori, gli erogatori di servizi e i manutentori, perfino all'occorrenza con il sistema bancario e con la pubblica amministrazione. Dialogo anche fra aziende e privati cittadini e fra i singoli individui e i loro oggetti, dagli elettrodomestici all'automobile. Tutto questo anche grazie ai sistemi cloud che saranno sempre più potenti. Nessuno potrà chiamarsi fuori. E l'esclusione potrà significare solo la morte economica. Tutto questo dialogare genera una massa enorme di informazioni, i big data, che software appositi monitorano, filtrano e valutano, permettendo di prendere decisioni in termini di gestione, manutenzione, utilizzo, vendita e controllo remoto del prodotto. Non solo. Prendendo le mosse dall'analisi dei big data, le aziende potranno formulare velocemente nuovi modelli di business, mettere in pratica nuove strategie, modificare istantaneamente il marketing e il pricing dei prodotti. Secondo alcune stime, il pricing intelligente potrebbe essere una delle maggiori sorgenti di valore create dalla quarta rivoluzione industriale. Comunque, senza analisi dei big data non si potrà competere. Anche per questo motivo, si dice spesso che nell'Industry 4.0 le fabbriche si trasformeranno in software house. Per gestire questi dati, ogni azienda manifatturiera dovrà trasformarsi a suo modo in una software house. Verranno ridotte al minimo scorte e magazzini e quindi i relativi costi. I componenti arriveranno just in time, solo quando sono necessari per assemblare il prodotto, e potranno anche essere assemblati fra loro in infiniti modi diversi e personalizzati. Qualcuno ha anche parlato di prodotti che dicono alle macchine come fabbricarli. Nel mondo Industry 4.0, just in time e personalizzazione di massa diventeranno la norma. Ma il cambiamento sarà ancor più radicale. L'interconnessione globale e le nuove tecnologie, infatti, stanno abbassando la soglia d'accesso a certi mercati. In prospettiva, alle aziende più intraprendenti e soprattutto più intelligenti, potrebbero non servire più capitali importanti. Basti pensare che il cloud e le offerte dei vendor di tecnologie non rendono più indispensabile il possesso di hardware e software impegnativi e costosi, che si possono utilizzare remotamente in modalità pay per use, con comodi canoni d'affitto mensile. La produzione è sempre di più a geometria variabile e con magazzino minimo o inesistente. Ciò significa che l'imprenditore può fabbricare direttamente solo una parte, magari piccola, e delegare il resto ad altri. Ciò che conta sul mercato è la proposta finale. Insomma, nel mondo dell'Industry 4.0, ciò che conta davvero è l'intelligenza del prodotto. Rieccoci in linea col professor Beltrametti, che ci ha lanciato una provocazione interessante, cioè il retrofitting, che sarebbe l'introduzione della Industry 4.0 in azienda utilizzando macchinari che ci sono già, dando una seconda vita a macchinari che potrebbero essere considerati in modo superficiale come obsoleti. È così? Sì, si tratta anche di un modo, come dicevamo, di comprare tempo, limitare l'ammontare degli investimenti finanziari e nel frattempo sviluppare una capacità cognitiva interna delle aziende. Il dato da cui siamo partiti oggi, cioè quello di questa polarizzazione delle imprese, in larga misura probabilmente è conseguenza anche del fatto che le imprese ormai competono su delle capacità cognitive, su delle identità organizzative, sull'accumulazione di uno stock di sapere. E questa accumulazione spesso è un processo non lineare, per cui chi è avanti riesce ad accumulare sempre più sapere e chi è indietro ha sempre più difficoltà a iniziare un percorso di accumulazione di questi saperi. Quindi diciamo che un percorso graduale come quello del retrofitting può permettere di iniziare un percorso di accumulazione di sapere senza la necessità di investimenti finanziari troppo importanti. L'importante è che il manager e l'imprenditore capiscano l'importanza di un cambiamento culturale. Certamente. Ma la capiscono questa importanza, secondo lei? Hanno capito che è necessario un cambiamento culturale? E che cosa significa un cambiamento culturale? Cambiamento culturale, se vogliamo rimanere all'esempio abbastanza banale ma credo chiaro della stampa 3D, per esempio vuol dire accettare l'idea che mai o quasi mai si farà nel futuro un pezzo in stampa 3D esattamente con la stessa forma geometrica e con lo stesso materiale che si usa oggi. Cioè passare alla stampa 3D vuol dire ripensare alla geometria del pezzo per sfruttare tutte le potenzialità della libertà di geometria della stampa 3D e spessissimo anche cambiare materiale. Per esempio la stampa 3D non spreca quasi materiale, per cui passare per esempio dall'acciaio al titanio è una cosa che si vede molto frequentemente. Si è iniziato a fare questo nell'industria aerospaziale, in parte nel biomedicale, ma c'è la possibilità di migrazioni di questo tipo anche in altri settori. Ma c'è anche un caso opposto: a volte grazie alla ricchezza geometrica si possono realizzare delle strutture in plastica che hanno una struttura reticolare talmente complessa e talmente robusta da avere una resistenza fisica simile a quella del metallo. Quindi non quasi mai adottare una nuova tecnologia vuol dire semplicemente comprare un nuovo macchinario, ma si tratta di ripensare il modo di produrre e il modo di progettare i propri beni e servizi. Sembra che così sia più facile, in realtà è più difficile. Purtroppo dobbiamo chiudere. Ringrazio il professor Luca Beltrametti, che troveremo anche in altre puntate. Grazie professore. Grazie a voi, buona giornata. E saluto tutti gli ascoltatori, ci risentiamo domani alle 13:10.